Il terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto. Tutto era pronto. Nella casa degli sposi, un quartiere accanto a quello di Don Paolo Giulente, ma del tutto segregato, finivano di dare l'ultima mano alla sistemazione dei mobili. Le cose erano fatte larghissimamente e con molto gusto. Il notaio di famiglia aveva già steso, in base alla transazione, sotto la dettatura del principe, i capitoli matrimoniali. Benedetto, per ringraziarsi il cognato, l'aveva lasciato fare e s'era contentato di 5.000 onze per il momento, invece di 8.000, poiché il principe gli diceva di non avere pronta tutta la somma. A poco, dal primo incontro col monaco e con la zitellona, egli era riuscito a farsi badare ogni giorno più da quei due, continuando a chinare il capo come un burattino a tutto ciò che dicevano. Articolo politica, Don Blasco e la sorella erano più arrabbiati di prima, vuotavano il sacco degli oltraggi e delle contumelie contro i liberali. In ricambio, donna Ferdinanda non venne a palazzo il giorno del matrimonio. Non ci venne neppure Don Blasco. Gli affari va bene, i discorsi pure, ma approvare con la loro presenza l'alleanza d'un Uzeda con l'affocato Giulente, questo poi no. Tranne di loro due, del resto, non mancò nessun altro della parentela, né al municipio la mattina, né alla cattedrale la sera. C'era una gran quantità di invitati, tutta la parentela, tutta la nobiltà, e poi i nuovi amici del duca, le autorità, il sindaco, il prefetto che li aveva invitati per dar risalto al carattere liberale dell'alleanza. E mentre la nobiltà borbonica se ne stava arrocchiata nel salone e nelle sale rossa e gialla, il deputato teneva un circolo democratico nella galleria dei ritratti, ricevendo i complimenti per quel bel matrimonio che era opera sua e discutendo degli affari pubblici. Don Paolo Giulente, poiché nelle sale nobili non trovava da piccar discorso, se n'era venuto ad ascoltarlo, a bocca aperta, non capendo nella pelle dal piacere d'essere diventato parente del grand'uomo. Suo fratello Lorenzo portava a spasso, per la circostanza, la cravatta verde di commendatore che l'amico deputato gli aveva fatto concedere dal governo di Torino, insieme con certi grossi appalti, delle poste, dei trasporti militari. Baldassarre, in gran tenuta, girava la testa della processione dei camerieri che reggevano i vassoi pieni di gelati, di spumoni, di gramolate e di dolci, e serviva la galleria dopo le sale, ma con la stessa etichetta, seguendo l'esempio del principe che faceva a tutti lo stesso inchino. E i viceré che guardavano dall'alto delle pareti. Basta, a lui toccava eseguire gli ordini dei padroni. Quando Dio volle, il corteo, sceso giù per lo scalone illuminato e preso posto nelle carrozze, s'avviò alla cattedrale. Il domani mattina andarono lassù a trovarli, uno dopo l'altro, i Giulente marito e moglie, Don Lorenzo il duca, la principessa e perfino Chiara, fresca come una rosa. I dolori erano svaniti. Ella aveva voluto a forza salire dalla sorella. Gli sposi non aspettavano più nessuno quando, nel pomeriggio, drlin, drlin, un tintinnio di sonagliere e la carrozza di donna Ferdinanda, tutta impolverata, si fermò dinanzi al cancello del villino. La zitellona, come se li avesse lasciati la sera precedente, come se fossero maritati da 10 anni, diede la mano da baciare alla nipote e, appena sedutasi, disse a Benedetto: «Bell'affare m'hai proposto. Gli altri creditori s'oppongono alla cessione dell'ipoteca». Benedetto, dallo sbalordimento, non seppe lì per lì che rispondere. Ma Lucrezia si voltò con lui dicendo: «Non c'è modo d'accordarli?» «I creditori? Sicuro si possono accordare!» E frenando a stento un sorriso esclamò: «Vostra Eccellenza non se ne inquieti. Il credito di Vostra Eccellenza era privilegiato. Li faremo stare a dovere, non dubiti». Thank you. Mutava facilmente opinione Lucrezia da un momento all'altro e tutti la secondavano, non solo suo marito ma anche il suocero e la suocera. La covavano con gli occhi come una cosa preziosa, la contentavano a un cenno, la servivano all'occorrenza. Così ella s'alzava ogni giorno un poco più tardi, restava un paio d'ore senza far nulla, senza neppure lavarsi. Vestita finalmente, se ne andava talvolta dalla sorella Chiara, che non era ancora partorita, avendo sbagliato i conti d'un mese. I Giulente, del resto, giudicavano naturale che la cercasse dei suoi parenti, né Benedetto pensava a rammentarle gli antichi propositi. Quando, un bel giorno, offertole come al solito d'accompagnarla a palazzo, si udì rispondere: «M'hanno da tagliare tutte e due le mani se vado più in quella casa». «Che è stato? Che t'hanno fatto?» «Che m'hanno fatto? Leggi!» C'era un passivo dove figuravano le spese della festa di nozze, un totale di 125 onze. Quando Giulente lesse quella nota, si mise a ridere di cuore, tanto gli pareva buffa la grettezza spinta a tal segno. Ma Lucrezia era furibonda contro il fratello, in modo straordinario. «Non era obbligato! È il frutto della mia dote che si è pappato per 6 anni, lesinandomi il pane, senza che io fossi padrona di comperarmi uno spillo. E la transazione a cui m'obbligò prendendomi per il collo per consentire al nostro matrimonio. E Ferdinando, spogliato con me. Se lo guardo più in faccia non sono più io». Non andò più infatti a palazzo, ma il principe dal canto suo non venne più da lei. Alla moglie, che voleva far qualche visita alla cognata, ordinò rigorosamente di astenersene. Don Blasco dal canto suo non aveva messo piede neppure una sola volta dagli sposi, e Lucrezia, dichiarandosene contenta, diceva anche tutte le pazzie e le porcherie del monaco. Ora, un giorno, rincasando, Benedetto, che per secondare la moglie e non già per sentimento proprio aveva chinato il capo a quelle sfuriate, la trovò seduta accanto a Don Blasco, al quale serviva biscotti e rosolio. E mentre lo aspettavano, il monaco s'era fatto raccontare tutto l'accaduto. Agli sfoghi di lei contro Giacomo e la cugina, egli pareva ingrassare nel seggiolone. Non esprimeva il proprio parere, non si schierava né da una parte né dall'altra, scrollava il capo soltanto per dar corda alla narratrice. Benedetto non era più padrone in casa propria, giacché nulla sfuggiva alla doppia critica della zitellona e del monaco, ma egli la soffriva allegramente, contento di vedersi ormai trattato da tutti gli Uzeda, solo dolente della freddezza sorta col principe per causa non propria. Ma ciò che faceva sua moglie era per lui sempre ben fatto, ed ella, che aveva preso al suo servizio Vanna, dalla quale era informata di tutto ciò che avveniva a palazzo, sfogava con lo zio Blasco contro il fratello, lo accusava di averla rubata, di aver rubato Chiara, di voler rubare adesso Raimondo. «Lo spinge lui contro la moglie. Dicono che gli ha detto: che ci stai a fare qui? Per metter legna sul fuoco. Deve avere il suo piano. Non è tipo da far nulla per nulla. E Raimondo parte con Matilde, per Milazzo, dice. Ma è troppo stupida, insomma, mia cognata. Io ho cercato di aprirle gli occhi, perché mi fa pena. La cosa non finirà bene. Non si sono consigliati con Benedetto sullo scioglimento del matrimonio? Io gli ho detto di non mescolarsi in questi pasticci». Thank you. La predica di Natale toccava quell'anno 61 a Consalvo Uzeda. L'aveva scritta il padre bibliotecario, che era letterato, perciò invece che nelle poche paginette degli altri anni, consisteva in un bel quadernetto. Egli, che aveva una memoria di ferro e una faccia tosta tutta prova, aspettava la cerimonia con una tranquillità e una sicurezza ignota ai compagni, ai quali i regali costavano 15 giorni d'ansia e uno di vera paura. Tutti esclamarono piano: «Che bel ragazzo! Come franco e sicuro!» Quando il principino, vestito della candida cotta piegolinata, salì sul pulpito, guardò tranquillamente la folla degli spettatori e spinse uno sguardo nella sagrestia, rigirandosi tra le mani il rotoletto del manoscritto e tossicchiando un poco prima di cominciare. Sotto lo stallo dell'abate, in mezzo al principe, al duca d'Oragua, a Benedetto Giulente, don Eugenio diceva: «Guardate che padronanza! Se non pare un predicatore consumato!» E questo era il giorno che Consalvo aspettava. Per l'impazienza di non vederlo arrivare per farsi mandar via, egli sfrenavasi sempre di più e metteva con le spalle al muro non più i fratelli e i camerieri, ma lo stesso maestro. Durante la rivoluzione, subito dopo, i tignosi avevano tolto dal convento Michelino, i curcuma Gasparino, i cugnò Luigi, né altri novizi erano entrati fuorché Camillo Giulente, giacché dicevasi che il governo avrebbe soppresso i conventi. Restavano soltanto quelli che le famiglie destinavano a professarsi. Giovannino Radalì fra gli altri, il figlio del pazzo. Come aspettava di crescere! Con quanta impazienza, con qual rancore verso il padre vedeva scorrere i giorni, le settimane, i mesi, gli anni in quella prigione! Con qual animo sentiva adesso le prediche severe dei monaci, dopo aver saputo la loro vita! Spesso discorreva di queste cose segrete con Giovannino, gli diceva quel che avrebbe fatto appena fuori del convento, e Giovannino stava a sentire con aria stralunata, quasi non capisse. Era così quel ragazzo, alle volte furioso come un diavolo, alle volte inerte come uno scemo. Finita l'agitazione politica, era venuta meno una gran causa di risse al noviziato e tra i padri, ma questi avevano trovata un'altra ragione di battagliare. Le voci relative alla prossima soppressione dei conventi erano state confermate da Roma. Non poteva passare molto che il governo degli usurpatori avrebbe messo le mani sui beni della Chiesa. Don Blasco s'era nettata la bocca contro i liberali, i fedifraghi, nemici di Dio e di loro stessi, che non avevano voluto dargli retta. Adesso, però, più che gridare, bisognava prendere un partito in previsione di quell'avvenimento. A San Nicola s'era sempre spesa allegramente tutta la rendita del convento, nella certezza che la cuccagna sarebbe durata fino alla fine dei secoli. Ma col mondo sottosopra, col pericolo che il governo abolisse davvero le corporazioni religiose, non era più conveniente moderare le spese perché il più corto non rimanesse poi da piede? Tra quelli che non credevano possibile la soppressione, tra gli altri che temevano di dover rinunziare al lusso di cui avevano sempre goduto, il partito delle economie trovava molti oppositori. In mezzo a due campi, Don Blasco non voleva né tenere né scorticare, scareventandosi a un tempo contro gli uni e gli altri. Le case regalate ai protetti dei monaci, per esempio, non bisognava toccarle. Don Blasco avrebbe voluto veder proprio questo, che avessero tolta la bottega e il quartierino alla sigaraia. E né lui né gli altri volevano rinunziare ai loro diritti. Spesato ed alloggiato, ciascun padre aveva 3 rotoli d'olio al mese, una somma di carbone, una salma di vino, tutta roba che andava a finire dalle amiche. Ora, i risparmi stavano bene, ma ciascuno pretendeva il suo. Thank you. Garibaldi era già in Sicilia a far gente. Non si sapeva perché, o meglio, si sapeva benissimo, per andar contro il Papa. Da un balcone del circolo degli operai, dominando il corso gonfio di popolo come una fiumana, egli spiegava lo scopo della nuova impresa, gettava con voce dolce il grido della nuova guerra. O Roma o morte! Poi dove andò egli a porre il suo quartiere generale? A San Nicola! Le grida, il trambusto che ci furono lassù tra i monaci, si lasciarono anch'essi molto indietro le dimostrazioni del 48 e del 60. Don Blasco divenne un energumeno. Disse cose dei piemontesi che non fucilavano Garibaldi e di Garibaldi che non spazzava via i piemontesi da far turare le orecchie a un saracino. In mezzo al baccano delle discussioni che minacciavano di finire a cinghiate, il povero abate pareva un pulcino nella stoppa, non sapendo come fare, non volendo dar mano ad affrettare lo scempio dei buoni principi, ma non potendosi opporre alla venuta dei garibaldini. Don Lodovico, lagnandosi delle tristizie dei tempi, invocando dal Signore la cessazione di quelle dure prove, prese le redini del convento e dispose il ricevimento di Garibaldi. Ordinò che dessero aria al quartiere reale, che preparassero pagliericci e foraggi, che vuotassero le cantine e i riposti. Quali progetti aveva Garibaldi? Quali ordini i rappresentanti dell'autorità? Il conflitto, semmai, sarebbe scoppiato a Catania? Che cosa avrebbe fatto la Guardia Nazionale? Non si sapeva nulla. Certuni dicevano che il governo fosse segretamente d'accordo con Garibaldi, che facesse finta ad osteggiarlo per l'occhio delle potenze. Benedetto, ripresa la pubblicazione dell'Italia Risorta, sosteneva questa opinione. E il silenzio del duca d'Oragua, al quale aveva scritto lettere su lettere pregandolo di tornare in Sicilia, poiché la presenza di lui poteva divenire necessaria, lo induceva a confirmarvisi. Rintanato nell'ultima stanza dell'ultimo corridoio del noviziato, Don Blasco volle sentire due volte la voce del nipote prima d'aprire. «Sei dunque impazzito anche tu, pezzo di bestione!» disse a Benedetto. Questi aveva appena domandato un perché timido, sommesso, che il monaco ricominciò con nuova violenza. «Come perché? Hai il viso di domandarlo, con la guerra civile che sta per scoppiare, la città bombardata, le strade insanguinate, i galantuomini perseguitati, e mi domandi perché? Ma come fare? Tutto il paese è per il generale». «Tutto il paese? Prima di tutto sei una bestia. Quale paese? I pazzi come te? E poi quand'anche ragione di più. Se il paese è per lui, se c'è entrato da trionfatore, che resta a farci? Fosse una piazza forte, capirei, ma una città aperta ai quattro venti. Se ha da attaccar battaglia, vada altrove, e si porti chi vuole ciò che vuole, e buon viaggio!» Giulente tornò a casa inquieto e sopra pensieri. Appena entrato in camera di sua moglie, vide Lucrezia seduta in un angolo, con gli sguardi a terra e gli occhi rossi. «Che hai? Che è stato?» «Nulla, non ho nulla.» «Tu hai pianto, Lucrezia, parla, dimmi che cos'hai.» E se non era per Vanna che sopravveniva, Benedetto non sarebbe riuscito a saper niente. «La padrona non vuol restare in città», dichiarò la cameriera. «Tutti i suoi parenti se ne sono andati, anche la povera gente si mette al sicuro e lei sola ha da restare al pericolo?» Dopo che ebbe parlato un quarto d'ora, ella articolò: «Voglio andarmene dai miei parenti.» Giulente stava ancora cercando di persuaderla quando arrivò la posta. In mezzo ai giornali c'era finalmente una lettera del duca. «Lo dico dunque a te, che puoi farlo comprendere alle teste riscaldate. Dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre sicuro al naufragio.» Il duca scriveva, escandescenze a parte, come Don Blasco parlava. Il monaco borbonico era, in fondo, d'accordo col deputato liberale. Thank you.